Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, nessuna è perfetta. Questa domenica in onda dopo l'8 marzo, data che noi non celebriamo, però speriamo che l'8 marzo vi siate concesse un brindisi alla faccia del multitasking, della fregatura che ci siamo auto-assegnate facendo tante cose, eppure talvolta facendoci del male. Quindi puntata dopo l'8 marzo, ma in questa puntata parleremo soprattutto di quello che è, ad avviso di molti, non certo soltanto mio, la vera liberazione della donna, dell'uomo, dei ragazzi. La vera liberazione passa per l'istruzione, passa per la formazione. Senza istruzione è difficile essere liberi. E allora parleremo per tutta la puntata di come i ragazzi e gli adulti che alla formazione di questi ragazzi stanno dedicando spesso delle ore extra lavoro, proprio cercando di mettere insieme i talenti dei sedicenni, dei 17 anni e il desiderio di restituire a questa generazione quello che le generazioni precedenti magari gli hanno un po' rubato. Allora, domenica dedicata alla formazione, perché è l'unico modo per essere veramente liberi, essere liberi e avere un lavoro anche di questi tempi. E a proposito di lavoro, voglio proprio sapere cosa pensa del lavoro e di come tenerselo o di come ottenerlo attraverso una formazione giusta, un sociologo che al lavoro ha dedicato tutto i suoi anni di studio. Domenico De Masi, professore di sociologia del lavoro presso l'Università La Sapienza di Roma, e il 9 marzo è uscito il suo ultimo libro dal titolo inquietante: Lavorare gratis, lavorare tutti, perché il futuro è dei disoccupati, pubblicato da Rizzoli. Allora, professor De Masi, questa è una puntata di Nessuna è perfetta che, arrivando tra l'altro dopo l'8 marzo, vuole sottolineare l'importanza della formazione per la liberazione di tutti, uomini e donne. Però la formazione per poi ritrovarsi a lavorare gratis e ritrovarsi disoccupati, ci aiuti un po' a tradurre il titolo del suo libro? Sì, ma intanto ci sono situazioni che riguardano specificamente l'Italia. Noi siamo abituati a sentirci un paese colto e invece stiamo diventando un paese fanalino di coda per quanto riguarda la cultura. Se noi paragoniamo per esempio il nostro paese con uno stato come la California, vediamo che in California i laureati sono il 52%, e questo comporta naturalmente un tenore di vita più alto, un modello di vita più civile, meno crimini, maggiore partecipazione alle competizioni. Sì, è vero, però si dice. L'istruzione in Italia è comunque di un buon livello. Un ingegnere italiano quando va all'estero non sfigura. Dopodiché però abbiamo i concorsi, sì, certo, per gli insegnanti, con gli insegnanti che scrivono ortograficamente degli orrori. Ma intanto i numeri ci danno torto, perché siamo il 21% di laureati contro, ripeto, il 52% della California. Cioè ormai siamo quasi la metà della media dei paesi dell'OCSE e questo è gravissimo. I nostri partecipanti all'università, cioè gli iscritti all'università, sono il 36% contro cifre quasi doppie di altri paesi europei. E inoltre abbiamo introdotto il numero chiuso, come se fossimo moltissimi. Quindi per quanto riguarda l'istruzione ci stiamo preparando malissimo anche al mercato del lavoro, anche perché in tutti i mercati del lavoro avanzati i laureati, per quanto vogliano trovare poco posto di lavoro, comunque lo trovano molto più che non i diplomati. Ecco, però comunque, c'è laurea e laurea, sì. Ci sono un sacco di lauree anche inutili, professore, no? Ma noi dobbiamo cominciare a separare la laurea dal concetto di lavoro. Agli inizi del Novecento tutta la lotta dei più avanzati deputati, soprattutto il ministro Baccelli, si battettero per la quinta elementare, nonostante il fatto che gli oppositori dicessero: ma come faranno a lavorare tanti alfabetizzati? E il ministro Baccelli rispose quello che risponderei io oggi per la laurea: la quinta elementare e la laurea oggi non serve solo per lavorare, serve per vivere, serve per capire il telegiornale, per capire i giornali, per leggere di più, per vivere meglio. Praticamente è la base culturale per un paese post-industriale. Cioè la laurea quindi oggi equivale alla quinta elementare di 2 secoli fa? Ah, non c'è dubbio. Di un secolo fa, addirittura. Non c'è il minimo dubbio. Occorre una qualità della vita. D'altra parte il Giappone c'ha una formazione minima di 21 anni. Ormai si va verso una società in cui, diciamo, teoricamente dovrebbero essere tutti laureati per aversi una società civile. Ecco, poi il posto di lavoro è importante, ma non da mettere in connessione. Non studio dal momento che la laurea non mi dà il posto di lavoro. Questo porta un duplice danno. Non solo non si ha il lavoro, ma si è anche meno in grado di vivere in modo civile. Certo, perché lo dicevamo, poi il leitmotiv di questa trasmissione, senza una adeguata istruzione, un'adeguata formazione, non si è liberi, perché si è, come dire, manipolabili, no? Condizionabili da chiunque. Il titolo del suo libro, però, Lavorare gratis, sì. Lavorare tutti, perché il futuro è dei disoccupati, non me l'ha spiegato ancora, professore. Glielo spiego subito. Dunque, noi abbiamo 23 milioni di occupati in Italia che lavorano circa 40 ore al giorno, alla settimana. Tenga conto che la nostra tendenza è a stare in ufficio molto di più di quanto ci stiano i lavoratori dei paesi protestanti. In Germania alle 5 del pomeriggio escono tutti, in Italia invece soprattutto i maschi restano in ufficio. Poi abbiamo 3 milioni e 100 mila disoccupati. Bene, se gli occupati lavorassero 36 ore anziché 40 ore, noi non avremmo disoccupati. Potremmo riassorbire tutti e tre i milioni e 100 mila disoccupati che abbiamo. Però ammesso che i disoccupati, sì, abbiano, come dire, la formazione, gli skills che sono necessari. Sì, sì, ma quelli ci sono. Lei pensi a quanti laureati, a quante donne laureate, soprattutto nel sud, laureate, non vengono poi utilizzate come forza lavoro, certo. Guardi che nel sud le donne laureate arrivano al 54%. Cioè solo che non lavorano, solo che non lavorano. Appunto, sì, appunto. No, dico, le laureate che non hanno lavoro sono più della metà. È uno scandalo enorme. Tra l'altro tenga conto che le donne si laureano con voti più alti dei maschi, quindi non è una questione di qualità, è proprio una questione di discriminazione nella discriminazione. Però c'è questa dicotomia, no? Lei dice, allora, abbiamo un sacco di gente che lavora troppo, se lavorassero meno ci sarebbe un lavoro per tutti, e quindi si torna allo slogan degli anni 70, no? Lavorare meno, lavorare tutti, che adesso sembra essere degli anni 30 addirittura. È del più grande economista del Novecento, cioè Keynes, il quale addirittura proponeva per i suoi nipoti, cioè praticamente per gli attuali giovani, una settimana lavorativa di 15 ore, quindi una drastica riduzione se non si voleva avere tutti i guai della disoccupazione, compresa poi la violenza, eccetera. Ma il mio libro si pone il problema: come in qualche modo convincere o costringere, diciamo, gli occupati a cedere queste 4 ore di lavoro settimanali, visto che abbiamo una situazione assurda per cui il padre lavora 10 ore al giorno e il figlio è completamente disoccupato, ma il padre non vuole cedere neppure un minuto. Come costringere in modo... Qual è la sua soluzione? Pacifico? La mia soluzione è che i disoccupati si mettano a lavorare gratuitamente, cioè si offrano su un mercato particolare, cioè con una piattaforma come Uber, si offrono sul mercato gratuitamente per un fatto semplice: ci guadagnano, non ci guadagnano in soldi, ma ci guadagnano in socializzazione e in autorealizzazione, perché ogni lavoro serve a 3 cose. per il salario, per l'autorealizzazione e per la socializzazione. Allora, perlomeno queste due cose il disoccupato lavorando gratis non le perde. Certo, facciamo un'ipotesi. Sì. Uno ha una formazione da commercialista, non ha lavoro da commercialista, si propone gratuitamente su una piattaforma digitale, fa un'app insieme ad altri colleghi come lui disoccupati e lavora gratuitamente, per una ONG. E come si mantiene, sì, però? Deve essere lo Stato a fornirgli il cosiddetto reddito di cittadinanza? Come si mantiene? Anche adesso ci dobbiamo chiedere come si mantiene. È una persona mantenuta con il welfare interno della famiglia il più delle volte. Quindi io propongo un'azione dimostrativa forte che durerà qualche mese a mio avviso, ma poi prima o poi i sindacati cederanno e ridurranno l'orario di lavoro. Ridotto l'orario di lavoro, la ridistribuzione è automatica. Lei è un ottimista. Sì. Lei è un ottimista. Sì. È veramente una opzione suggestiva. Io ringrazio il professor De Masi, vi ricordo il libro che è appena uscito, Lavorare gratis, lavorare tutti perché il futuro è dei disoccupati, un libro Rizzoli. Grazie professore. Grazie a lei. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Nessuna è perfetta. Bentornati, bentornati a Nessuna è perfetta. Questo lo sapete, è il momento della nostra Sunday Girl. E siccome è per tutta la puntata la nostra ossessione sarà pensare ai giovani, alle nuove generazioni, anche la nostra Sunday Girl è veramente giovane. Buona domenica Roberta Mattei, buona domenica Roberta Mattei che è nelle sale dal 2 marzo con Omicidio all'italiana, scritto, diretto e interpretato da Maccio Capatonda, ma voi l'avete conosciuta col suo suo debutto con Non essere cattivo, un film di Claudio Caligari, e poi con Veloce come il vento. Allora, esatto. Prima di raccontare l'Italia dell'omicidio all'italiana, del divertente film di Maccio Capatonda, volevo chiederti, nella tua diciamo recentissima, perché sei molto giovane, consapevolezza di giovane donna, l'8 marzo che posto ha? È una data con una sua rilevanza o è una cosa che consideri una roba da mamme e da nonne che per una della tua generazione non ha più senso? No, dovrebbe continuare ad avere molto senso. Al di là di tutto, credo che sia una data che vada ricordata, forse in maniera diversa, nel senso che sono andata a Mosca l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo, per presentare appunto Non essere cattivo, ed sono stata molto sorpresa nel notare come lì, per esempio, la festa delle donne la festeggiano in maniera completamente diversa, e mi si faceva notare che viene anticipata da una settimana in cui tutti gli uomini negli uffici, nei posti di lavoro, mandano fiori in continuazione alle donne, e questa ragazza mi faceva piacevolmente notare, dice, voi in Italia l'8 marzo sembra un po' la liberazione dalle case carceri per le donne, perché escono tutte a fare baldoria, mentre noi qui per tradizione la festeggiamo proprio con gli uomini, cioè sono gli uomini che onorano le donne. Sì, è una festa di riconciliazione tra i sessi, anche perché gli uomini russi spesso hanno molto da farsi perdonare, almeno così pare dai dati sulle violenze domestiche che sono stati resi pubblici recentemente. Questa nostra puntata è una puntata, Roberta Mattei, molto concentrata su quella che è la formazione, perché dicevamo 8 marzo, liberazione simbolicamente da tanto, ma senza istruzione, senza formazione non si è liberi. E mi piacerebbe capire qual è stata la tua formazione. Parto da una intervista che tempo fa avevi rilasciato, avevi detto che la tua scuola è stata la periferia. Sì. Sì, è stata la periferia e il teatro nella periferia. Devo dire che questo connubio, di solito chi studia teatro, insomma, siamo abituati a pensare che si trovi nei posti più centrali, invece c'è chi opera nell'hinterland di una città come una periferia. Tu sei cresciuta a Spinaceto, che è una periferia romana. Sì, una periferia andando verso il mare, verso Ostia, tra l'Eur e Ostia. E c'era una scuola di teatro. Sì, c'era un primo laboratorio, un primissimo laboratorio in questa associazione che poi negli anni è diventata l'associazione che la mia famiglia continua a portare avanti insieme al teatro, a mio fratello e a me, e quindi sì, la periferia mi ha formato dal punto di vista della realtà, nel senso che io vivevo e vivo ogni tanto ritorno, vivo in periferia, questo ti dà modo di confrontarti con qualcosa che principalmente viene dimenticato, che è i rapporti e la vita quotidiana in un posto dove non ci sono molte alternative, in cui internet non rappresenta un'alternativa perché è solo un modo per rimanere collegati così superficialmente, e in cui si incontrano delle realtà abbastanza, come posso dire, non violente, anche violente, però insomma appunto un po' disincantate per certi versi, e questo ti dà modo, ovviamente, se hai degli strumenti per poter analizzare quello che ti circonda, ti fa crescere, certo, ti fa crescere più rapidamente. Tu hai iniziato a recitare a 12 anni. Sì. E hai visto il teatro come l'unico modo per crescere culturalmente, perché quello che studiavi a scuola non ti piaceva, invece recitare ti piaceva, e attraverso il teatro hai conosciuto anche hai avuto un accesso alla cultura che a scuola avresti rifiutato. Sì, diciamo che l'accesso alla cultura, per quanto mi riguarda ovviamente, parte prima dalla famiglia. Se non avessi avuto la mia famiglia non avrei mai visto Edoardo De Filippo a 9 anni, e quindi non avrei conosciuto che cos'è una compagnia teatrale e quello che comporta poi stare in compagnia. Poi è capitato di appunto incontrare questo laboratorio a 12 anni ed è stato per me sì diciamo un modo per cominciare a coltivare un'autostima, perché andavo a scuola, mi piaceva imparare, ma allo stesso tempo diciamo avevo delle difficoltà legate a una difficoltà di apprendimento non grave, ovviamente, perché adesso ovviamente ce l'hanno la maggior parte dei bambini, però adesso diciamo in 20 giorni con una buona assistenza riesci a imparare un metodo tuo per apprendere. Quindi il teatro mi ha dato questa possibilità, ossia affrontando dei testi classici riuscivo a connettere e a collegarmi ad altre materie, perché il mio insegnante di teatro aveva la buona abitudine di ampliare i concetti. Quindi io, partendo da Shakespeare, conoscevo poi, facendo collegamenti, l'arte, Pirandello, altre forme di letteratura, filosofia, che è quello che poi ho incontrato al liceo classico, ed è il motivo per cui ho scelto il liceo classico nonostante gli insegnanti mi dirigessero verso un professionale. hai fatto proprio bene. Senti, nel film che è nelle sale adesso, Omicidio all'italiana di Maccio Capatonda, c'è un pezzo di Italia che è molto buffa, no? Questo piccolissimo paese abruzzese che si inventa un delitto perché dice chi siamo noi per non essere cogne, per non essere avetrana? Cioè, si sorride ma con un po' di amarezza. Beh sì, perché si ha la consapevolezza che in certo modo la visibilità e il riconoscimento e anche forse il valore quasi di un paese possa esserci solo nel momento in cui sei sotto le telecamere. E il punto è che adesso, appunto, come dice Marcello Macchia stesso, c'è questo turismo dell'orrore che in qualche modo rende il tutto un po' agghiacciante, perché tra la televisione, come vedrete nel film, che cerca di fare le indagini al posto della polizia, sia tra gli abitanti che si snaturano perché vanno incontro alla modernità che arriva di punto in bianco in questo paese, si ha un po' l'illusione di far parte di qualcosa di più grande, quando in realtà è tutto molto illusorio. E secondo me è un tema che andava messo in evidenza, prima di tutto perché mi ha fatto piacere, perché Maccio ha tirato un po' fuori quel mondo che anche Pasolini diceva che sarebbe scomparso, che è quello diciamo dei paesi, dell'agricoltura, della tradizione italiana dal punto di vista dei piccoli paesi. Certo, che si sta un po' omologando, naturale. No? Ecco. Sì, esattamente. Invece lui è bello perché il sindaco poi si accorge che questo cambiamento forse non è benefico per il suo paese, perché appunto ti allontana da un'autenticità che invece viene sostituita da un'omologazione. Ma non raccontiamo tutta la trama, perché appunto Omicidio all'italiana va visto consente anche di farsi due risate che non fa mai male. Grazie allora alla nostra Sunday Girl di questa domenica, Roberta Mattei. Andiamo a vedere Omicidio all'italiana di Maccio Capatonda e sorridiamo, sia pure magari un po' così, un po' amaramente. Grazie. Grazie a voi. Grazie, buona domenica. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Nessuna è perfetta. Bentornati, questa è la terza parte di Nessuna è perfetta e noi continuiamo a parlare di giovani, di futuro e di istruzione, perché appunto a qualche giorno di distanza dall'8 marzo quello che ci preme qui raccontare è che è importante sì trovare un lavoro, ma senza la formazione, senza l'istruzione, questo vale per ragazze e ragazzi, il lavoro sarà ancora più difficile trovarlo. Ed è per questa ragione che gli esperti di questa domenica sono due quarantenni che invece stanno lavorando proprio alla formazione presente e futura di ragazzi italiani, e sono Alessandra Losito, il direttore di Roma di Pictet Wealth Management, della banca Pictet, una banca svizzera, ed è Alessandra Losito la creatrice e la responsabile del fundraising del progetto I Fuori Classe della Scuola, una serie di borse di studio di cui ci parlerà lei stessa tra un attimo. L'altro esperto che è con noi è Claudio Corbino, che è amministratore delegato e fondatore dell'Associazione Diplomatici Italiani, una ONG che è ufficialmente riconosciuta dall'ONU, e ogni anno la sua associazione, Claudio Corbino, organizzano, dopo una serie di corsi di formazione, eventi a New York, a Roma, a Barcellona, negli Emirati Arabi, e il più importante di questi eventi si terrà a marzo, adesso dal 16 al 23 marzo, vedrà la partecipazione di oltre 2000 ragazzi che saranno 3 giorni alle Nazioni Unite e simuleranno di essere parte di questa istituzione mondiale. A che serve questo? Serve a dare loro una coscienza sociale e a fare magari, chissà, i primi passi in quella che potrebbe essere una futura carriera da diplomatici. Buona domenica a tutti e due, Alessandra Losito e Claudio Corbino. E la prima cosa che vorrei chiedere ad Alessandra Losito: il 1 marzo è stata lanciata questa seconda edizione del progetto I Fuori Classe della Scuola. Chi premiate? Quali sono le caratteristiche per accedere a queste borse di studio e qual è l'obiettivo dei Fuori Classe della Scuola? Sì, grazie Maria, buongiorno a tutti. sono molto contenta oggi di raccontare questo progetto che abbiamo appunto realizzato lo scorso anno per la prima volta. E i fuoriclasse della scuola nasce da una collaborazione pubblico-privato, i promotori sono istituzioni, sono la Fondazione per l'Educazione Finanziaria del Risparmio, il MIUR, l'ABI e il Museo del Risparmio di Torino. E nasce da una mia idea, ma è stata realizzata con un entusiastico contributo delle istituzioni. Lo scorso anno abbiamo raccolto 45 borse di studio per studenti delle superiori che hanno vinto a livello nazionale le competizioni delle Olimpiadi della scuola, quindi di matematica, fisica, filosofia e così via. Questi ragazzi hanno ricevuto un premio in denaro e hanno partecipato ad un campus di 3 giorni a novembre al Museo del Risparmio di Torino. E le 45 borse di studio sono state finanziate da aziende, da banche, da fondazioni e da associazioni, con un risultato straordinario, visto che appunto era la prima edizione. Come dicevi tu, adesso abbiamo lanciato la seconda edizione, dove puntiamo a superare le 45 borse dello scorso anno, e già i primi segnali sono molto incoraggianti. Ecco, quanti ragazzi e quante ragazze hanno vinto quest'anno? Dunque, i premi erano collegati alla vittoria ad una competizione oggettiva, che sono appunto le Olimpiadi nazionali. E l'anno scorso c'erano 10 ragazze e 35 ragazzi, e da qui probabilmente la riflessione sulle competizioni e sulla maggiore partecipazione a queste competizioni, che sono organizzate appunto dalle scuole, prima a livello certo. locale. Quindi per ora ci sono più ragazzi comunque, che è sì. una tendenza interessante, perché di solito sono le ragazze che vincono la borsa di studio, di più che i ragazzi. Claudio Corbino, a che cosa punta questa iniziativa? In che cosa vengono formati i ragazzi prima di arrivare appunto ad eventi come quello che per 3 giorni li porterà a New York nel Palazzo delle Nazioni Unite? Ma innanzitutto buona domenica a tutti. I ragazzi seguono un percorso che potremmo sinteticamente definire essere orientato sui temi principali della geopolitica e delle relazioni internazionali. Ci avvaliamo di collaborazioni amichevoli di grandi maestri come Lucio Caracciolo, Giuseppe Scognamiglio, Paolo Magri, insomma veramente autorità massime nel settore da noi percorso. L'obiettivo è quello di cercare di far drizzare le antenne ai nostri ragazzi su quello che succede, diciamo, fuori dal cellulare, ecco, più che fuori sì. dalla loro camera, e orientarli ad una possibilità di percorso internazionale, lavorativo e di studi, che non necessariamente, naturalmente, si deve poi concretizzare, come dire, in una carriera internazionale nella intesa, diplomazia. Esatto, intesa in senso pieno, ma anche semplicemente con l'opportunità di andare a lavorare all'estero, che naturalmente è un'opportunità sempre presente. Poi in realtà nello sfondo significativo della nostra esperienza vi è quella di cercare di far stare insieme i ragazzi di tutto il mondo, farli confrontare sul tema dell'alterità, della diversità. Ecco, credo che questo sia un mondo nel quale dobbiamo insistere sul segnalare che la diversità è una speranza e non una paura. Ecco, e poi proprio perché spesso la scuola non è sufficiente, magari a casa non si ricevono sufficienti stimoli, far capire che esiste un mondo, perché magari a 16 anni, a 17 anni si è vagamente informati perché si va sul web, si legge, ma l'idea di quello che succede lontano dalla piccola dimensione dell'istituto scolastico che si frequenta, o della piazza con gli amici, oltre non va. E voi che cosa fate per formarli? Ascoltano appunto i maestri che citavi, da Lucio Caracciolo a Magris, e poi invece nei 3 giorni alle Nazioni Unite che cosa faranno? Ma nei 3 giorni alle Nazioni Unite i ragazzi fingono, diciamo così, giocano nel senso nobile del termine, interpretano il ruolo di capi di Stato e di Governo, ministri degli esteri e ambasciatori alle Nazioni Unite. Interpretando questi ruoli, quindi, si calano nelle realtà internazionali che nel frattempo hanno studiato nei corsi di formazione e imparano la cosa forse più difficile dell'essere adulti, cioè il confrontarsi con colui il quale, con colei la quale difende un interesse diverso dal proprio, e quindi bisogna trovare un punto d'accordo, devono votare una risoluzione finale che naturalmente dovrà mettere insieme la maggior parte di essi, e quindi un grande lavoro di negoziazione sui contenuti e sui valori. Ecco, poi c'è una cosa che mi incuriosisce dell'esperienza di tutti e due, nel senso che Alessandra Lossito di lavoro, appunto, lavora per una grande banca svizzera e si occupa di investimenti. Come è venuta l'idea invece di lavorare sulla formazione di ragazzini delle scuole medie superiori e ovviamente ragazzini di famiglie non particolarmente abbienti, ma che abbiano meritato a scuola? Come è venuta questa idea? L'idea è venuta un paio d'anni fa, un po' perché penso che ognuno di noi debba restituire un po' della fortuna che ha avuto, e poi perché sono fortemente convinta che l'istruzione è la principale, se non l'unica chiave della crescita sociale ed economica di un paese, quindi ero convinta che ci fosse un desiderio da parte della società civile, da parte del privato di contribuire, mancava il contenitore, mancava un contenitore autorevole ed affidabile, ed è per questo appunto che poi è nata appunto il progetto dei fuori classe della scuola. Un segnale importante della prima edizione che abbiamo visto è che il talento non è concentrato nelle grandi città, non è concentrato in una regione in particolare. Questi 45 fuori classe arrivavano da Agrigento a Treviso, passando per tutta Italia. Questo secondo me è l'età media qual è? 17 anni. 17 anni. E vengono da istituti tecnici, licei? Sì, da licei classici, da istituti tecnici, da licei scientifici, molto, ma soprattutto mi ha molto colpito la eterogeneità nel senso di una provenienza geografica, ed è un bellissimo segnale appunto del talento che è diffuso e che in questo modo viene messo alla luce, perché il riconoscimento dei fuori classe della scuola non è un punto di partenza anche per loro, sono stati supportati, ma in molti casi hanno anche ricevuto proposte di alternanza scuola-lavoro, hanno ricevuto proposte di stage retribuiti, sono appunto delle eccellenze del sistema scolastico che vengono messi in luce, vengono messi alla luce e vengono anche in qualche modo supportati dal sistema. Il vincitore dell'anno scorso era un ragazzo cinese, se non sbaglio? Tra i 45 c'era un ragazzo, sì, italo-cinese. Italo-cinese, che è che ha vinto, il numero uno? No. Sono tutti e 45. Ah, se non c'è un numero uno e un numero 45, no. Tutti e 45, tutti e 45 hanno vinto le competizioni, diciamo, nelle 13 discipline. La particolarità di questo ragazzo è che ne ha 22. Perché ha vinto due competizioni. Notoriamente ecco. Gli orientali sono particolarmente portati per le materie scientifiche. Claudio Corbino, intanto una curiosità. L'idea di occuparsi di formazione per i ragazzi delle scuole superiori e per quelli dell'università è venuta mentre lei era uno studente di scienze politiche. Sì, in realtà di giurisprudenza, però insomma poco cambia. Sì, è così. Io avevo 21 anni ed ero alla ricerca di uno studio universitario che sapesse meglio coniugare, a mio naturalmente modestissimo giudizio, meglio coniugare la nozione acquisita sui libri di testo con la pratica lavorativa. E quindi mi parve interessante questa progettualità delle Nazioni Unite che insomma raccontava della possibilità di mettere in pratica quanto acquisito sui libri attraverso il gioco di ruolo, e quindi cominciai a frequentare ormai 18 anni fa questo mondo della formazione ONU. Poi 10 anni fa circa, dopo molti anni di conduzione degli studenti italiani ad eventi organizzati da fondazioni americane, ebbi l'idea di suggerire alla nostra missione permanente italiana di fare qualcosa di simile, ma anche di profondamente diverso, che fosse più inclusivo, che avesse i temi, diciamo, dell'educazione come fonte di cambiamento, cioè l'idea che ci ponevamo è come è possibile parlare di cambiamento senza educare una classe dirigente all'idea del cambiamento. Siamo tutti d'accordo su questo, anzi se ne parla tanto, ma insomma praticamente è più difficile vedere delle cose in azione. La vostra è un esempio di traduzione, no? In concreto. Ma, grazie, mi auguro di sì, devo dire il successo di questi anni lo testimonia, ma devo dire anche la grande attenzione che le istituzioni nazionali e internazionali hanno poi voluto assicurare alle nostre iniziative, mi conforta sul fatto che, come dire, esiste ancora un tessuto istituzionale, sociale, se vogliamo anche politico, che si pone questo problema. Poi naturalmente risolvere il problema della formazione della classe dirigente ci vorrebbe la bacchetta magica. Però ecco, Claudio Corbino, come li selezionate i ragazzi che seguono i vostri corsi di formazione, e dove si fanno questi corsi di formazione, e come arrivano a voi? Cioè, se c'è una mamma che ci segue e pensa che suo figlio o sua figlia possano essere interessati, come fa a contattarvi? Ma la strada più semplice è naturalmente il sito, che è diplomatici.it, attraverso il quale si entra direttamente in contatto con tutto il nostro mondo. Noi proponiamo alle scuole, alle università e ormai anche direttamente attraverso internet agli studenti interessati i nostri percorsi formativi, mettiamo a disposizione ingenti risorse in termini di borse di studio per favorire la partecipazione dei ragazzi, risorse autoprodotte da noi, nel senso che il nostro meccanismo non prevede né finanziamenti pubblici né privati, è un meccanismo tutto incentrato su un sistema, diciamo, di impresa, per cui le famiglie che intendono acquisire i nostri pacchetti formativi li pagano. Noi da questo meccanismo tiriamo fuori circa 450 borse di studio che ogni anno riusciamo a assegnare ai ragazzi più meritevoli attraverso specifici bandi, naturalmente specifiche call che assicurino un'adeguata preparazione dei ragazzi, e favoriamo anche chi ha più difficoltà evidentemente a reperire i fondi. Quindi c'è in tutti e due i vostri casi la parola magica è borse di studio. Io credo moltissimo nelle borse di studio, sono stata, come dire, aiutata dalle borse di studio in tutta la mia carriera di studentessa prima, e con una borsa di studio ho cominciato a fare giornalismo, quindi capirete perché questa mattina abbiamo tanto parlato di queste due iniziative. E io ringrazio molto sia Alessandra Losito che Claudio Corbino, primo per aver avuto queste idee e secondo per avercele raccontate. In bocca al lupo dunque per i fuoriclasse della scuola, e in bocca al lupo per l'evento che dal 16 al 23 marzo vedrà l'Associazione Diplomatici e 2000 ragazzi, 1000 dei quali sono italiani, vero? Sì, sì. Ecco, tutti a New York, alle Nazioni Unite. Grazie e buona domenica a tutti e due. Grazie Maria, buona Grazie. Domenica a tutti. Grazie a voi. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci, questa è una puntata un po' diversa, è una puntata che è dedicata alla formazione. Invece di avere una lettera di un'ascoltatrice che ci racconti i suoi problemi professionali, questa domenica abbiamo il racconto in presa diretta di due ragazzi che attraverso l'Associazione Diplomatici, di cui abbiamo parlato poco fa con Claudio Corbino, il fondatore dell'associazione, cercano la loro strada nel mondo della diplomazia. Allora, buona domenica Emanuele Cutrona e buona domenica Alessandro Rossi. Buona domenica. Allora Emanuele, quanti anni hai? 21. E perché hai deciso di partecipare all'Associazione Diplomatici? Che cosa pensi che ti possa portare questa formazione in più? Allora, io ho iniziato a bazzicare nel sito dell'Associazione Diplomatici, che è proprio lo strumento che mi ha permesso di entrare in contatto con loro, con la loro realtà, già, diciamo, molti, molti anni fa, quando ero uno studente liceale di 17 anni. Mi ha incuriosito sin da subito il mondo che loro prospettavano di creare tramite una formazione che investiva particolarmente sui giovani di oggi. Dunque, preso da tantissima curiosità, preso da una forte emozione, da una carica che i miei studenti, i miei professori al liceo, i miei professori all'università non sono mai riusciti a darmi, ho pensato che i diplomatici potesse essere lo strumento adatto, il canale adatto per provare a far emergere quelle qualità e quelle competenze sulle quali la scuola oggi non investe e sulle quali io invece voglio investire. Ma tu che cosa hai imparato, per esempio, concretamente? Concretamente sicuramente ho imparato tantissime cose che sono dalle più svariate, che sono lo stare a contatto innanzitutto con persone provenienti da realtà ben diverse dalla nostra. È troppo facile dire che nessuno di noi ha difficoltà a lavorare con una ragazza che indossa un burka o con un ragazzo che quando parla più volte cita Allah e non il nostro Dio che andiamo a pregare ogni domenica in chiesa. Troppo facile. Una cosa invece è farne esperienza, lavorare con loro giorno per giorno, creare con loro un progetto, lavorare con loro a delle idee per cambiare il nostro mondo, per affrontare problematiche che i nostri diplomatici oggi affrontano quotidianamente durante le loro sedute lì a loro. Quindi tu vuoi fare la carriera da ambasciatore? Assolutamente sì, io sono uno studente di giurisprudenza e sto indirizzando, dopo aver fatto l'esperienza con diplomatici, tutti i miei studi verso questo obiettivo. Quante lingue parli? Al momento, l'altro è l'italiano, due che sono l'inglese e lo spagnolo, è un livello B1 di francese. Alessandro, 24 anni e vivi a Rovigo. Esatto. Tu studi giurisprudenza. Esattamente, studio giurisprudenza. All'Università di Ferrara, giusto? All'Università di Ferrara, che ha una sede qui nella mia città, Rovigo. E perché vorresti fare anche tu la carriera diplomatica? Come l'hai scoperto questa associazione diplomatici? Devo dire che, a differenza di quanto stava dicendo prima Emanuele, il primo contatto con diplomatici è stato abbastanza casuale, nel senso che è girata una mail da parte del Dipartimento di Giurisprudenza con le iniziative di diplomatici. Allora mi sono un po' avventurato nel loro sito, dove è proposta tutta l'offerta formativa, e ho aderito al primo progetto che era disponibile in quel periodo. E a quel periodo c'era un progetto che era per quell'anno, nel 2015, un progetto pilota che trattava di una simulazione un po' diversa, diciamo, dalle solite di diplomatici del model United Nations, ed era il model Europe. Quindi una simulazione incentrata sull'Europa e su una maggior consapevolezza della cittadinanza europea. Io nel 2015 stavo svolgendo degli studi europeistici, stavo affrontando un po' delle materie a stampo europeistico, e quindi ho detto, perché non mettersi in gioco e provare ad andare sul campo e vedere effettivamente che cos'è questa Europa. E i tuoi amici? I miei amici inizialmente sono rimasti un po' basiti, perché non conoscevano questo mondo, però come loro anche la famiglia e gli insegnanti che ho trovato nel mio percorso, ho sempre trovato un supporto ed un appoggio a queste iniziative promosse da diplomatici. A tutti e due vorrei chiedere, qual è la cosa che trovate particolarmente, come dire, demotivante, deprimente quando incontrate altri ragazzi di altri paesi? Cioè, in che cosa pensate che l'Italia dovrebbe fare di più? Allora, se posso permettere di dare una risposta per primo, se Alessandro è d'accordo. Sì, prego. Se sei d'accordo, mi permetto di dire che collaborando con altri ragazzi di altri provenienti di altri stati, ci si rende conto come noi studenti italiani abbiamo un livello di preparazione sicuramente molto elevato, non mi permetto di avere la presunzione di dire più elevato rispetto agli altri, ma molto elevato. Tuttavia però l'Italia investe pochissimo su quelle che sono le altre competenze che gli studenti dovrebbero avere, quelle che definiamo competenze trasversali, quelle competenze che all'estero molti studenti hanno perché già al liceo. Quelle che definiremmo soft skills, il public speaking, il problem solving, tutte quelle serie di abilità. Le cose pratiche che ti aiutano, esatto, per esempio anche a trovare lavoro, perché se ti presenti a un colloquio e non sai parlare, non sai portare un curriculum, non sai spiegare in che cosa sei bravo, sì. Esattamente, proprio questo. L'Italia ha un ottimo metodo di insegnamento, però forse non più in linea con i tempi, che andrebbe rivisto. Quindi la preparazione che ci dà, che l'Italia, che lo Stato ci fornisce, è sicuramente una preparazione elevata. però bisognerebbe forse rivedere il metodo e permettere agli studenti di avere competenze di altro tipo anche che all'estero. Alessandro, un diplomatico deve saper scrivere bene in molte lingue, ma deve saper scrivere bene in italiano. Di recente un concorso che è stato segnalato alla pubblica opinione, al concorso per insegnanti, ha evidenziato che gli insegnanti stessi hanno problemi con l'ortografia. 600 docenti universitari un mese fa hanno lanciato l'allarme perché in media gli studenti che arrivano al primo anno di università hanno seri problemi di comprensione del testo, hanno detto i docenti. Nella tua esperienza, non parliamo di te, ma cosa pensi di queste due diverse notizie che sono arrivate ai giornali e ai media in generale? Queste due notizie non possono che trovare un dato comune in un aspetto. Come diceva anche Emanuele, la nostra istruzione in Italia ha un eccellente livello comparato con quello di altri paesi. Però mica tanto, se si fanno errori di ortografia al primo anno di università, non mi pare così eccellente. Questo eccellente livello è un livello teorico, e un livello teorico che purtroppo non si traduce in un atto pratico. E quindi da questo punto di vista ha portato ad una decadenza, diciamo, dell'istruzione, per cui si è tralasciato questo aspetto della capacità di saper scrivere, si è incentrato molto sulla capacità di insegnare, trasmettere qualcosa ai ragazzi, ma sulle capacità base della scrittura purtroppo si è tralasciato. E poi la grammatica si impara alle elementari e alle medie, in prima media insomma. E medie, esatto, per arrivare ad acquisire delle competenze linguistiche scritte all'università che non dovrebbero essere in dubbio. Grazie Emanuele Cutrona e grazie Alessandro Rossi. Buona domenica a tutti e due. Grazie a te Maria, arrivederci.